Capitolo 37. Vorrei essere morta. Oppure che fosse già domani sera, gemette Phil. Se vivrai abbastanza a lungo, tutti e due i tuoi desideri diverranno realtà, precisò calma Anna. È facile per te restare serena con la filosofia, tu sei nel tuo elemento. Io no. E quando penso a quell'orribile pezzo di carta di domani, tremo tutta. E se mi andasse male, che cosa potrei dire a Joe? Non ti andrà male. Come hai fatto, Greco, oggi? Non lo so, forse l'ho fatto bene, o forse talmente male da far rivoltare Omero nella tomba. Mi sono talmente spremuta le meningi sugli appunti che non sono più capace di farmi un'opinione su nulla. Come sarà riconoscente la piccola Phil quando su tutti questi esaminamenti calerà la parola fine? Esaminamenti? Mai sentita questa parola. E allora? Non ho il diritto di coniare una parola nuova come chiunque altro? Le parole non si coniano, crescono naturalmente, argomentò Anna. Ah, non preoccuparti, io riesco vagamente a scorgere di fronte a me acque chiare dove non si profilano gli scogli degli esami. Ehi, ragazze, vi riesce di immaginare che la nostra vita a Redmond è finita? No, si dolse Anna. Mi sembra soltanto ieri che io e Priscilla eravamo sole nella folla dei freshman a Redmond. E adesso ci ritroviamo senior nel bel mezzo del nostro esame finale. Potenti, saggi, reverendi senior, declamò Phil. Pensate che ora siamo davvero più sagge di quando siamo arrivate qui? A volte non agite certo come se lo foste, sentenziò zia Jamesina con aria severa. Oh, zia Jamesina, non siamo forse state buonissime più o meno sempre in questi 3 anni in cui tu ci hai fatto da madre? La lusingò Phil. Siete state tutte e quattro le più care, le più buone, le più dolci ragazze che mai abbiano frequentato insieme l'università. Dichiarò zia Jamesina che non era mai parsimoniosa nei complimenti, ma sospetto che non abbiate ancora troppo buon senso. Uno non se lo deve aspettare, intendiamoci. È l'esperienza che lo insegna, non si impara all'università. Voi siete state all'università 4 anni e io nessuno, ma so come vanno le cose assai meglio di voi, signorinelle mie. Stella la interruppe. Sono molte le cose che regole non hanno, e vedi, conoscenze un vasto mare che le scuole trasmettere non sanno, né all'università si possono imparare. Avete imparato altro a Redmond, oltre le lingue morte, la geometria e roba del genere? Insistette zia Jamesina. Abbiamo imparato la verità, contenuta nelle parole che il professor Woodley ha pronunciato durante l'ultima riunione della Philomatic. Disse Phil, ha detto: l'umorismo è il sale che dà sapore alle vivande dell'esistenza. Ridere dei propri errori ma trarne insegnamento, ridere dei propri guai ma trarne forza, scherzare sulle proprie difficoltà ma superarle. Non è un insegnamento importante, zietta? Lo è, micina. Quando avrete imparato a ridere delle cose di cui si può ridere e a non ridere di quelle di cui ridere non è giusto, allora avrete conquistato la saggezza e la comprensione della vita. Che cosa hai imparato a Redmond, Anna? Mormorò Priscilla. Io credo, disse piano Anna, di aver imparato sul serio ad affrontare ogni piccolo ostacolo come uno scherzo e ogni grande ostacolo come un presagio di vittoria. Tutto sommato, credo sia questo l'insegnamento che Redmond mi ha dato. Io devo invece riferirmi ancora al professor Woodley, disse Priscilla. Ricordi quando ha detto c'è talmente tanto nel mondo per tutti noi che basta solo avere occhi per vederlo, cuore per sentirlo e mani per raccoglierlo? Talmente tanto negli uomini e nelle donne, nell'arte, nella letteratura, dovunque il nostro sguardo si volga, per il nostro diletto, che non possiamo che esserne immensamente grati. Questa frase era proprio per me. Io penso che in un certo senso sia stato Redmond a insegnarmelo, Anna. A giudicare da quanto dici, fece notare zia Jamesina, la sostanza è che hai imparato in 4 anni di università quello che, se avessi avuto abbastanza senso pratico per natura, la vita ti avrebbe insegnato in 20 anni. Bene, questo basta a giustificare un'educazione superiore per quanto mi concerne. Mi spiace di aver espresso dei dubbi prima d'ora. E che succede alle persone che non hanno un senso pratico per natura, zietta? Quel tipo di persone non impara mai, ribatté zia Gemsina, né all'università né dalla vita. Anche se vivessero 100 anni, non farebbero un passo più in là di quando sono nati. La loro è sfortuna, non colpa, povera gente. Ma quelli di noi che sono stati dotati di senso pratico dovrebbero esserne grati. Vuoi essere così carina da fornirci una definizione esatta di che cosa intendi per senso pratico? Domandò Phil a zia Gemsina. Eh no, ragazzina, chiunque possieda senso pratico sa che cosa significa e chi non ce l'ha non lo saprà mai. Perciò non c'è alcun bisogno di definirlo. I giorni caldi passarono e gli esami ebbero fine. Anna ebbe il massimo dei voti in letteratura. Priscilla in lettere classiche e Phil in matematica. Stella ottenne una buona votazione generale e venne il giorno della cerimonia finale. Questo è quello che un tempo avrei chiamato il giorno della mia vita, sospirò Anna, svolgendo dalla carta il mazzolino di violette di Roy e fissandolo pensierosa. Intendeva adornarsene, ma i suoi occhi erano catturati da un altro mazzolino che giaceva sul tavolo. Era di freschi e fragranti mughetti, altrettanto freschi e fragranti quanto quelli che crescevano a Green Gables quando Junior regnava su Avonlea. Accanto era posato il biglietto di Gilbert Blythe. Anna si domandava perché Gilbert le avesse inviato dei fiori per la festa della consegna dei diplomi. Lo aveva visto assai poco durante l'inverno. Era stato soltanto un venerdì sera a Patty's Place dalle vacanze di Natale e l'aveva incontrato molto raramente da altre parti. Sapeva che stava studiando moltissimo per ottenere, oltre al massimo dei voti, il premio Cooper e che prendeva poca parte alla vita sociale di Redmond. Anna aveva avuto invece un inverno fitto di impegni sociali. Aveva incontrato più volte Gardner, lei e Dorothy erano diventate intime amiche e nei circoli studenteschi si attendeva di giorno in giorno l'annuncio del suo fidanzamento con Roy. Anche Anna se l'aspettava. Anna stava già per uscire da Patty's Place quando si tolse il mazzolino di Roy e lo sostituì con i mughetti di Gilbert. Non avrebbe saputo dire perché lo aveva fatto. In qualche modo i vecchi tempi di Avonlea e i sogni e le amicizie le parvero più consone al raggiungimento delle ambizioni a lungo carezzate. Una volta lei e Gilbert avevano indugiato a descrivere, pregustando nella felicità, il giorno in cui avrebbero indossato il tocco e la toga per ricevere la laurea tanto sognata. Quel giorno era finalmente giunto e non c'era posto per le violette di Roy. Solo i fiori degli amici di antica data appartenevano a quel momento, quello in cui le speranze erano sbocciate e se ne raccoglievano i frutti, secondo i sogni un tempo condivisi. Per anni aveva sospirato e atteso quel giorno, ma quando giunse, il solo ricordo duraturo e amaro che le rimase non fu quello dello sconvolgente momento in cui l'austero preside di Redmond le porse toga e tocco dichiarandola laureata, né quello di quando scorse il lampo degli occhi di Gilbert nel notare i mughetti sul suo abito, e neppure di quando intercettò lo sguardo imbarazzato e ferito di Roy nell'incrociarla sul palco, né a restarle in mente fu il momento in cui ricevette le condiscendenti congratulazioni della madre di Roy e quelle ardenti e calorose di Dorothy. Fu invece il ricordo di una strana e inspiegabile pena che le sciupò quel giorno a lungo atteso, lasciandole un sapore amaro, vago, ma incancellabile. I laureati diedero una festa da ballo quella sera. E quando Anna si preparò per la circostanza, mise da parte il filo di perle che indossava di solito e tirò invece fuori dal baule lo scatolino che era arrivato a Green Gables per Natale. Era una sottile catenina d'oro con un pendente a cuoricino in smalto rosa. Sul cartoncino di accompagnamento c'era scritto: «Con i migliori auguri dal tuo vecchio compagno Gilbert». Allora, ridendo al ricordo che il cuoricino di smalto aveva risvegliato, aveva rammentato con chiarezza il giorno fatale in cui Gilbert l'aveva chiamata pel di carota, per poi cercarne invano il perdono con l'offerta di una caramella rosa a forma di cuore. Gli aveva scritto 2 righe gentili di ringraziamento, ma non aveva mai indossato il piccolo gioiello. Quella sera si affrettò ad allacciarlo intorno al collo bianco con un sorriso sognante. Lei e Phil Si recarono insieme a Redmond. Anna camminava in silenzio, Phil chiacchierava di una quantità di cose. All'improvviso disse: «Oggi ho sentito che prima della fine della festa di laurea verrà annunciato il fidanzamento di Gilbert Blythe con Christine Stewart, lo sapevi?» «No», disse Anna. «Credo sia vero», confermò Phil allegra. Anna non parlò, si sentì avvampare nel buio. Infilò la mano sotto il colletto e afferrò la collana. Un piccolo strappo energico e la catena si aprì. Anna la infilò, rotta, nella tasca. Aveva gli occhi scintillanti e le tremavano le mani. Ma fu la più allegra degli allegri festaioli di quella sera e senza ombra di rincrescimento. A Gilbert, che le chiedeva un ballo, rispose che il suo carnet era pieno. E infine, sedendo con le ragazze accanto ai tizzoni morenti nel camino di Patty's Place, acceso per riscaldare la loro pelle di seta intirizzita per i rigori primaverili, neanche allora nessuno chiacchierò più fittamente e allegramente di lei degli avvenimenti della giornata. Moody Spurgeon ha telefonato ieri sera, appena siete uscite, disse zia Jamesina, che si era alzata ad attizzare il fuoco. Non sapeva nulla del ballo di laurea. Quel ragazzo dovrebbe dormire con una fascia elastica intorno alla testa per impedire alle sue orecchie di sporgere. Io una volta avevo uno spasimante con lo stesso problema. Ha fatto così ed è migliorato immensamente. Ero stata io a suggerirglielo e lui ha seguito il mio consiglio, ma non mi ha mai perdonata di averglielo dato. Moody Spurgeon è un giovane molto serio, sbadigliò Priscilla. È impegnato in problemi ben più grandi delle sue orecchie, sta per diventare pastore. Beh, suppongo che il Signore Dio non badi alle orecchie di un uomo, commentò gravemente zia Jamesina, abbandonando ogni ulteriore atteggiamento critico nei confronti di Moody Spurgeon. Zia Jamesina aveva un rispetto particolare per la tonaca, anche quando a indossarla era un giovane parroco. Capitolo 38. Immagina, tra una settimana sarò ad Avonlea. Che pensiero delizioso! Disse Anna, curva sullo scatolone in cui aveva ritirato le coperte della signora Linde. Ma pensa anche che tra una settimana me ne sarò andata per sempre da Patty's Place. Che pensiero orribile! Chissà se i fantasmi delle nostre risate echeggeranno nei sogni verginali della signorina Patty e della signorina Maria. Congetturò Phil. Ritorneremo nella seconda metà di maggio, aveva scritto la signorina Maria. Mi aspetto che Patty's Place mi appaia assai piccola dopo il Salone dei Re a Karnak, ma non ho mai amato i posti grandiosi per viverci. Sono abbastanza contenta di tornare a casa. Quando cominci a viaggiare tardi nella vita vuoi vedere molto, perché sai che non avrai più molto tempo per farlo, e questo è un pensiero che ti cresce dentro. Io lascio qui i miei sogni e le mie fantasie, perché portino fortuna a chi verrà ad abitarvi, disse Anna, guardandosi intorno con rimpianto. Quella era la bella cameretta azzurra in cui aveva vissuto 3 anni felici della sua vita. Si era inginocchiata alla finestra per pregare e vi si era sporta per contemplare il tramonto dietro i pini. Aveva udito la pioggerellina d'autunno battere contro i vetri e aveva dato il benvenuto ai pettirossi di primavera da quel davanzale. Si domandò se i vecchi sogni potessero sostare nelle stanze in una sorta di magia. Se una volta lasciata per sempre la cameretta in cui aveva gioito e sofferto e pianto e riso, qualcosa di lei, intangibile, invisibile, ma non per questo meno reale, sarebbe rimasto tra le pareti come la voce di un ricordo. Io credo, disse Phil, che la stanza dove uno sogna e soffre, gioisce e vive rimanga inseparabilmente connessa con questi processi e su di essi modelli una sorta di personalità. Sono sicura che se verrò qui tra 50 anni la camera mi griderà: Anna! Anna! Che bei tempi abbiamo trascorso qui, mia cara! Quante chiacchiere, scherzi e allegre riunioni di buoni compagni! Oh, santi numi! Sposerò Joe a giugno e credo che sarò stramaledettamente felice, ma quel che vorrei adesso è che la nostra vita a Redmond continuasse per sempre. Anch'io sono così ragionevole da desiderarlo, ammise Anna. Non importa quali gioie più profonde abbia in serbo l'avvenire, perché non avremo più un periodo così spensierato e privo di responsabilità. È finito per sempre, Phil. Che farai con Rusty? Si informò Phil vedendo entrare il gatto nella stanza. Me lo porterò a casa con Joseph e Sarah Cat, annunciò zia Jamesina, giungendo sulla scia di Rusty. Sarebbe una crudeltà separare questi due gatti proprio ora che hanno imparato a convivere. È una lezione dura da apprendere per i gatti come per gli esseri umani. Mi dispiace separarmi da Rusty, si rammaricò Anna, ma non mi sarebbe possibile portarlo a Green Gables. Marilla li detesta e Davy renderebbe loro la vita impossibile. D'altronde non credo che rimarrò a casa a lungo. Mi hanno offerto di dirigere la scuola superiore di Summerside. Pensi di accettare? Indagò Phil. Non ho ancora deciso, rispose Anna arrossendo. Phil annuì sopra pensiero. Naturalmente Anna non poteva prendere alcuna decisione prima che Roy si dichiarasse, e lui l'avrebbe fatto presto, non c'era alcun dubbio. E non c'era alcun dubbio che Anna avrebbe risposto sì quando lui le avesse chiesto vuoi? Anna stessa guardava lo svolgersi delle sue faccende sentimentali con un certo soddisfatto compiacimento. Era profondamente innamorata di Roy. In verità, non lo amava dello stesso tipo di amore che aveva vagheggiato, ma c'era davvero qualcosa nella vita, si chiese stancamente Anna, che corrispondesse ai sogni? Si ripeteva la stessa delusione di bambina, lo stesso disappunto che aveva provato vedendo un diamante, un freddo luccichio, anziché lo splendore che si era prefigurata. Non corrisponde alla mia idea di diamante, aveva detto. Ma Roy era un caro ragazzo e sarebbero stati felici insieme, anche se la sua vita aveva perso un certo sapore che Anna non avrebbe saputo definire. Quando Roy giunse quella sera, chiedendole di scendere con lui a passeggiare nel parco, tutti a Patty's Place ne indovinarono il motivo e ognuno sapeva o credeva di sapere quale sarebbe stata la risposta di Anna. Anna è una ragazza molto fortunata, commentò zia Jamesina. Può darsi, azzardò Stella stringendosi nelle spalle. Roy è un caro ragazzo e via dicendo, ma non ha sostanza. Questo sa di commento dettato dalla gelosia, la rimproverò zia Jamesina. Sarà? Ma io non sono gelosa, ribatté calma Stella. Io voglio bene ad Anna e Roy. E Roy mi piace. E tutti dicono che lei sta per fare un matrimonio brillante e persino la signora Gardner si è lasciata conquistare. Tutto sembra perfetto, ma io ho i miei dubbi. Prendila come credi, zia Jamesina. Roy chiese ad Anna di sposarlo sulla spiaggia del porto, nel piccolo padiglione in cui si erano rifugiati il giorno piovoso del loro primo incontro. Anna pensò che quella scelta era davvero romantica. La proposta di Roy risultò così impeccabile che sembrò copiata, come era successo per uno degli innamorati di Ruby Gillis, dal manuale di corteggiamento e matrimonio. L'effetto globale era squisito e suonava anche sincero. Non c'erano dubbi che Roy credesse davvero in quanto diceva. Non c'erano note false a incrinare la sinfonia. Anna pensò che avrebbe dovuto sentirsi vibrare da capo a piedi, invece non avvenne. Era orribilmente priva di emozioni. Quando Roy si fermò per consentirle di rispondere, lei socchiuse le labbra per pronunciare il fatidico sì, e fu allora che si sentì vibrare, ma come se fosse sull'orlo di un precipizio e stesse per inabissarsi. Era giunto per lei uno di quei momenti in cui comprendiamo, come in un accecante lampo di luce, quello che richiederebbe anni per essere capito. Anna sfilò la sua mano da quella di Roy. Non posso sposarti, non posso, non posso! Gridò con impeto selvaggio. Roy si fece pallido e sembrò anche un po' istupidito. Si era sentito, colpa sua, piccola colpa sua, troppo sicuro. Che cosa intendi dire? Biascicò. Intendo dire che non posso sposarti, ripeté Anna, disperata. Pensavo di potere, ma non posso. Perché non puoi? Domandò Roy più calmo. Perché io non ti amo abbastanza. Una vampata di rossore tinse il volto di Roy. Sicché? Ti sei baloccata con me per 2 anni? Disse a fatica. No, non è così, annaspò la povera Anna. Come avrebbe potuto spiegarglielo? Non era possibile, c'erano cose che non potevano essere spiegate. Io pensavo davvero di amarti. Lo pensavo sinceramente, ma adesso so che non è vero. Hai rovinato la mia vita, l'accusò con amarezza Roy. Perdonami, lo implorò desolata Anna, con le guance ardenti e gli occhi che le bruciavano. Roy le voltò le spalle e rimase qualche minuto a fissare il mare. Poi ritornò verso Anna, pallidissimo. Non mi dai speranza? Domandò. Anna scosse il capo in silenzio. Allora, addio, disse Roy. Non riesco a capire, io non credo che tu non sia la donna che ho sempre creduto. Ma rimproverarci è inutile. Tu sei la sola donna che potrò mai amare. Confido almeno nella tua amicizia. Addio, Anna. Addio, rispose tristemente Anna. E quando Roy se ne fu andato, indugiò a lungo nel padiglione, guardando una nebbiolina bianca che saliva dal porto, sottile e spietata. Era scoccata per lei l'ora della vergogna, del disprezzo di sé, dell'umiliazione. L'onda dei sentimenti la travolse, eppure nel profondo avvertiva un bizzarro senso di libertà ritrovata. Sgattaiolò a Patty's Place all'imbrunire e si rifugiò in camera sua, ma c'era Phil ad attenderla seduta sulla poltrona accanto alla finestra. Aspetta! Si affrettò a raccomandarle Anna, anticipando le sue reazioni. Aspetta, finché non avrai sentito quel che ho da dirti, Phil. Roy mi ha chiesto di sposarlo e io ho rifiutato. Tu hai rifiutato? Sì. Anna Shirley, sei nel pieno possesso delle tue facoltà mentali? Io credo di sì, dichiarò Anna con fatica. Oh, Phil, non sgridarmi, tu non capisci. Lo credo che non capisco. Hai incoraggiato Roy in ogni modo per 2 anni e ora mi dici che l'hai rifiutato? Allora hai vergognosamente flirtato con lui. Anna, non me lo sarei mai aspettato da te. Io non flirtavo con lui. Fino all'ultimo momento ho sempre pensato di amarlo e poi ho semplicemente avuto la certezza che non avrei potuto sposarlo. Suppongo, aggiunse crudelmente Phil, che tu volessi sposarlo soltanto per il suo denaro e che a un certo punto i tuoi migliori sentimenti si siano risvegliati, impedendotelo. Non è vero, non ho mai pensato al suo denaro. Oh, io non so spiegartelo più di quanto l'abbia spiegato a lui. Bene, io penso soltanto che hai trattato Roy in maniera vergognosa. Lui è bello, è intelligente, è ricco e buono. Che diamine vuoi di più? Io voglio qualcuno che davvero appartenga alla mia vita. Lui non le appartiene. Io ero sopraffatta dall'emozione. In primo luogo per il suo bell'aspetto, poi per la sua capacità di fare romantici complimenti. E poi ho pensato che non potevo non amarlo perché era esattamente il mio ideale, il mio bell'eroe dagli occhi scuri. Io ho un'innata incapacità di capire quello che sento, ma tu mi dai dei punti, brontolò Phil. Ma io mi conosco bene, protestò Anna. Il guaio è che cambio e allora devo ricominciare tutto da capo. Beh, penso che non ci sia più niente da dire. Non ce n'è bisogno, Phil. Sono caduta nella polvere, ho sciupato tutto. Non potrò più pensare ai giorni di Redmond senza che mi ritorni in mente l'umiliazione di stasera. Roy mi disprezza, tu mi disprezzi, io mi disprezzo. Piccina, si commosse Phil. Su, vieni qui e lasciati consolare. Io non ho nessun diritto di sgridarti. Io avrei sposato Aleco Alonso se non avessi incontrato Joe. Oh, Anna, è tutto così poco chiaro nella vita reale. Non c'è nulla di netto e ben delineato come nei romanzi. Spero che nessuno mi chieda mai più di sposarlo finché campo, singhiozzò Anna, credendo appassionatamente in quel che diceva.